Questo posto è l'ex campo scuola di Modena, furono chiamati così quando furono realizzati nel 1958, credo, questa data è esatta. E furono un intervento lungimirante, strategico, perché dentro a questo posto, che è costituito da una pista di atletica, dalle pedane di atletica, ci sono passate praticamente tutte le nuove generazioni di Modena, dalle scuole che sono venute qui. E io trovo gente che dice: no, ma io lo conosco perché ho corso sopra quella pista lì, e ci sono stato con la mia scuola quando abbiamo fatto gli studenteschi. È stata una grandissima palestra di educazione fisica e di atletica e di sport basato sulle scuole, quindi una cosa molto importante, no? Nel mondo sportivo e nelle strutture anche delle città, perché questo campo nasce quando c'era ancora l'autodromo di Modena, qui c'erano dei prati, c'erano dei fontanazzi, c'erano delle robe di quel tipo lì, insomma c'era della campagna, questo vuol dire campagna, adesso sembra di essere un centro, vediamo di